Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se mi sentirò tranquillo di portare mio figlio a scuola? Ben tranquillo, assolutamente fiducioso, anzi, gli comunicherò tutto l'entusiasmo di iniziare questa nuova esperienza, questo nuovo anno scolastico. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è la risposta che oggi il Presidente del Consiglio Conte ha dato durante la conferenza stampa che ha tenuto sulla riapertura della scuola a un giornalista che appunto chiedeva: ma lei si sente tranquillo, data la situazione, di mandare suo figlio a scuola? E si è detto assolutamente fiducioso, ha confermato che la riapertura regolare della scuola, in sicurezza, pur in questa situazione eccezionale, avverrà il 14 settembre, anche se sapete che si va un po' in ordine sparso proprio per l'autonomia delle regioni, dei comuni, sulla questione delle riaperture della scuola. Ha detto oggi Conte: abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole, quest'anno avverrà in un contesto nuovo, non facile, che sfiderà tutto il sistema Italia, ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comincerà regolarmente. E su questo, poi, su questa conferenza stampa, sui contenuti ci soffermeremo nel corso di questa puntata. E così come torneremo a parlare dei dati legati strettamente al coronavirus in Italia, anche in virtù per esempio del fatto che si è arrestata per il momento in modo temporaneo la sperimentazione del vaccino di cui abbiamo parlato tante volte qui a Effetto Notte, in collaborazione tra il laboratorio di Pomezia e l'Università di Oxford. Poi l'OMS, ieri parlavamo della quarantena che la Francia vuole ridurre da 14 a 7 giorni, il governo possibilista ma aspetta evidenze scientifiche, l'OMS oggi è ritornata sul fatto che devono essere 14 giorni. Poi c'è una novità importante, test rapidi in 3 minuti, test salivari che potranno essere fatti a breve in Italia se ci sarà l'avallo del Ministero della Salute. E poi torneremo naturalmente sull'omicidio del povero Willy a Colleferro, perché sono emersi davvero dei particolari veramente sconcertanti della cattiveria, della malvagità, della violenza di chi lo ha ucciso a botte. Per i vostri commenti e riflessioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure per i WhatsApp il numero è sempre quello 349-238-6666, 349-238-6666. Prima degli approfondimenti con gli ospiti, sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia è di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati, il bilancio delle ultime ore. Restrizioni in 5 comuni in Abruzzo e stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca Oxford, ma dall'Italia arriva un progetto di un test super rapido. Scuola, Conte conferma, il 14 settembre riparte regolarmente. La scuola è una sfida per tutto il sistema Italia. Smart working previsto per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena. L'omicidio di Willy a Colleferro, un testimone racconta l'aggressione, i due fratelli si accanivano sul ragazzo e qualcuno ha anche saltato sul suo corpo. Il Covid nel mondo, il governo francese annuncia presto decisioni difficili e negli Stati Uniti in un libro intervista Trump ammette di aver nascosto la vera minaccia del virus, ma poi la Casa Bianca smentisce. Calcio, in crisi di conti, sceglie la svolta per la Serie A, via libera ai fondi per la Media Company. E partiamo quindi dall'andamento del coronavirus in Italia. È di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio di queste ultime ore sul fronte coronavirus, mentre i dati diffusi dal Ministero, secondo i dati scusate, del Ministero della Salute, i numeri sono in aumento rispetto a ieri e si prevedono tempi più lunghi per un vaccino italiano contro il Covid. È arrivato infatti uno stop alla sperimentazione sul vaccino sul quale puntava l'Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020. In arrivo invece c'è un test rapido tutto italiano con i casi ancora, appunto, come dicevo, in leggero aumento. Aumentano lievemente i nuovi contagi, aumentano però anche i tamponi effettuati, due variabili da considerare nella lettura del bollettino quotidiano sul coronavirus. 1.434 nuovi casi, 64 in più del giorno precedente, quando però i tamponi erano stati oltre 92.000 contro i circa 96.000 dell'ultima rilevazione. Se si guarda al rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati su persone mai testate prima, il 3 trend dei due giorni risulta sostanzialmente stabile. 14 i decessi contro i 10 registrati in precedenza, 150 le persone in terapia intensiva, 7 più del giorno precedente. Tra le regioni è la Lombardia a registrare il maggior numero di nuovi casi, 218, seguite dalla Campania 203, ma nel primo caso sono stati effettuati più di 21.000 tamponi, nel secondo oltre 7.000. Zero nuovi contagi solo in Valle d'Aosta. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È Made in Italy il nuovo test rapido chiamato Daily Tampon, in grado di accertare la positività al SARS-CoV-2 tramite la saliva. Lo ha messo a punto la società Allum di Merate in Brianza in collaborazione con l'Università del Sannio. L'azienda in giornata ha annunciato la partenza della produzione avendo ottenuto il via libera del Ministero della Salute, il quale però a stretto giro ha negato di aver ancora dato validazione ad alcuno dei test rapidi allo studio. Nella fattispecie, quello brianzolo consentirebbe di avere un responso in 3 minuti grazie ad un tampone con un campione di saliva e l'utilizzo congiunto di 3 reagenti. Intanto il vaccino allo studio ad Oxford, al quale collabora anche una società di Pomezia, ha subito uno stop. L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso la sperimentazione in via precauzionale dopo che uno dei volontari, unico caso su 50.000, ha accusato un'infiammazione spinale che peraltro ancora non si sa se è collegata al vaccino inoculato. I test all'Università di Oxford, a quanto si apprende, potrebbero riprendere già la prossima settimana, ma il timore di un allungamento dei tempi e di un'Italia in ritardo è palpabile. Secondo l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico all'Humanitas di Milano, è inimmaginabile avere a disposizione un vaccino quest'anno. Saremo fortunati, ha detto, se tra tutti quelli in sperimentazione ne avremo uno pronto per il 2021. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Piemonte le famiglie avranno l'obbligo di segnare sul diario, su appositi moduli, la temperatura dei figli che vanno a scuola, giorno per giorno, lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Mentre per quanto riguarda l'Abruzzo, 5 comuni, Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d'Antino e Lucoli, tutti in provincia dell'Aquila, sono comuni per i quali la Regione Abruzzo si appresta a emanare un'ordinanza di tipo restrittivo per alcune attività alla luce del contagio da Covid riscontrato in queste località. E poi si apprende che a Cagliari, in Sardegna, sono esauriti i posti di terapia intensiva. In tutto questo quadro, in Italia la scuola si avvicina al debutto, allora oggi bisogna fare il punto. A fare il punto è stato il Presidente del Consiglio Conte, mentre l'altro punto cruciale è il lavoro da casa. Potrà lavorare da casa chi ha figli under 14 in caso di quarantena o in alternativa scatterà il congedo al 50% dello stipendio. Allora facciamo il punto sulla scuola e il lavoro. La scuola ripartirà il 14 settembre, anche se alcune regioni hanno scelto di posticipare. A confermarlo è il Premier Conte, che in una conferenza stampa con i ministri Azzolina, Speranza e De Micheli ha illustrato le novità del nuovo anno scolastico, dai nuovi banchi all'uso delle mascherine. Sarà un rientro in sicurezza, ha garantito il Presidente del Consiglio. Il rientro in classe delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi, un rientro in piena sicurezza, sono stati e saranno gli obiettivi prioritari di questo governo. Conte ha spiegato che ogni giorno saranno consegnate 11 milioni di mascherine gratis nelle scuole, dove arriveranno anche altri 160.000 nuovi docenti e 77.000 tra insegnanti e amministrativi a tempo determinato. Ci saranno nuovi contagi, ma la scuola è il luogo meno rischioso, ha affermato invece la ministra dell'Istruzione Azzolina, la quale ha fatto sapere che è sceso da 1 milione a 50.000 il numero degli studenti rimasti senza un'aula per la regola del metro di distanza. Fino a quando non verranno trovati altri locali, dovranno comunque frequentare le lezioni mantenendo la mascherina in classe. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un'esperienza e un'accelerazione agile e necessaria che non potremo più dimenticare, anzi, bisogna farne tesoro. E ora che con le dovute precauzioni ripartono le scuole in presenza e il 15 ottobre è il D-Day perché finisce lo smart working di emergenza, si rimodulano le regole per la pubblica amministrazione, come per il privato. Certo, ci sarà il diritto allo smart working per chi ha figli a casa under 14 in quarantena, in alternativa al congedo straordinario retribuito al 50% per uno dei genitori. Per chi vuole continuare, ci sono esempi di aziende aziende apripista che agevolano anche con misure in più, come spiega Marco Russomando, HR in una digital company come la banca Illimity. Un sistema di permessi retribuiti un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio, al di là della ovvia pausa pranzo, per consentire alle persone di curarsi dei propri bimbi e ragazzi. E per la PA proprio in questi giorni si aprono i tavoli sullo smart working, obiettivo 50%, ma va ripensato, come spiega Florindo Oliverio, segretario nazionale FP-CGL, che vi parteciperà. L'esperienza è stata positiva, dall'altro lato però ha messo in evidenza anche che non tutto è smartabile, come si dice adesso, non tutto cioè è possibile fare in modalità agile. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi queste le nostre misure e le nostre criticità. Cosa succede invece negli altri paesi europei? Assembramenti vietati per esempio in Gran Bretagna, la Francia dice siamo vicini ad altre decisioni importanti. Multe da 100 a 3.200 sterline sono quelle che minaccia il premier britannico Johnson per chi violerà il divieto di assembramento, inteso come raduno di oltre 6 persone, che vigerà dal 14 settembre in Gran Bretagna. In caso di resistenza, ha precisato il premier, si rischierà perfino l'arresto. Sono meno di 3.000 i nuovi casi registrati nel Regno Unito oggi, molti meno della media degli 8.000 rilevata ultimamente in Spagna, che è diventata ormai il benchmark negativo d'Europa. E a Madrid si paragona infatti il presidente del Consiglio Scientifico francese Delfrassy quando dice «Non siamo ancora al loro preoccupante livello, ma forse solo in ritardo di un paio di settimane e così, entro 8-10 giorni, potremmo essere obbligati a prendere decisioni difficili». E mentre Olanda e Portogallo segnano oggi nei contagi un ritorno ai numeri di aprile, Berlino ha annunciato che viene prorogato al 30 settembre l'invito a evitare viaggi non indispensabili in 160 paesi ritenuti a rischio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, un nuovo libro mette in imbarazzo il presidente Donald Trump. In Rage, rabbia, il presidente ha confidato all'autore, il leggendario giornalista del Watergate, Bob Woodward, che sapeva da settimane prima del primo decesso americano per Covid-19, quando il virus poteva già essere pericoloso, trasmissibile per via aerea, altamente contagioso e più fatale di una forte influenza. Nelle anticipazioni del libro diffuse dalla CNN ammette inoltre di aver sempre voluto minimizzare per non creare panico, dichiarazioni che contrastano con i frequenti commenti del presidente, anche se in serata la Casa Bianca ha tassativamente smentito. Ancora all'estero, la giornalista Svetlana Alexievich, premio Nobel per la letteratura, ha denunciato che degli sconosciuti hanno cercato di entrare nel suo appartamento a Minsk, l'unica dei membri del Consiglio dell'opposizione bielorussa a essere ancora libera in patria dopo che stamattina degli uomini mascherati hanno catturato Maxim Znak. Intanto il padre dell'attivista Maria Kolesnikova ha detto ai media che la giovane è in carcere a Minsk e tenuta in isolamento. Si alza lo scontro tra Londra e Bruxelles. Il governo britannico minaccia di cambiare gli accordi già presi per la Brexit e vedremo meglio che cosa succede nei prossimi giorni. Di nuovo in Italia con la politica, toni che si alzano in attesa del voto per regionali e referendum del 20 e 21 settembre. Matteo Salvini, leader della Lega, è stato aggredito da una donna mentre era a Pontassieve, una località a pochi chilometri da Firenze, per la campagna elettorale. Il leader della Lega è stato avvicinato da una trentenne congolese che lo avrebbe strattonato. A Salvini sono state strappate la catenina e la camicia, è stata identificata e rischia ora una denuncia. In Senato intanto si discute delle riforme chieste dal PD per il sì al voto. L'elettorato passivo non si tocca, ma quello attivo sì. L'Aula del Senato approva con 125 voti favorevoli, 84 astenuti e nessun contrario la riforma costituzionale che abbassa a 18 anni l'età per poter eleggere i senatori. Oggi bisogna averne 25. Il provvedimento tornerà ora alla Camera per la terza lettura e poi al Senato per l'ultimo via libera, essendo una legge costituzionale. Ma la maggioranza si spacca. Italia Viva non partecipa al voto in dissenso contro la decisione di togliere dal testo la parte sull'elettorato passivo che apriva la possibilità di essere eletti a Palazzo Madama dai 25 anni in su rispetto ai 40 previsti dalla Costituzione. A modificare il disegno di legge è stato un emendamento depositato dal PD, un dietro front che ha riportato il testo a quello approvato a Montecitorio il 31 luglio 2019, quindi senza l'elettorato passivo. Il centrodestra si è astenuto. Elisabetta Fiorentino, Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca con l'omicidio di Willy a Colleferro. Un testimone racconta l'aggressione, i due fratelli bianchi si accanivano sul ragazzo e qualcuno ha anche saltato sul suo corpo. Poi cercheremo di ritornare sugli sviluppi, ancora novità ci sono. Oggi purtroppo è stata fatta anche l'autopsia di Willy sul, appunto, relativamente al suo omicidio. I viaggi di Radio 24. Città in movimento, anche oggi andiamo a vedere come ci si sposta nelle città italiane tra autobus, metropolitane e tram per capire chi si muove e come si muove. Oggi è la volta di Roma, dove ci aspetta alla stazione Termini Alessandra Schepisi. Una grande sfida attende Roma, quella della mobilità, e il vero banco di prova sarà a partire da lunedì, quando suonerà la campanella per gli oltre 330.000 studenti della capitale, e nelle settimane successive, quando molti lavoratori è possibile che rientreranno dallo smart working. Autobus, tram e metro cominciano già a riempirsi, soprattutto nelle ore di punta, le testimonianze di alcuni passeggeri. Sono abbastanza pieni. Io prendo il metro e prendo l'autobus e si cominciano a riempire, sì. Questi ultimi giorni un po' più pieni. No, abbastanza pieni. Anche la metropolitana, i pullman, i bus. Secondo i sindacati, il 25% delle fermate degli autobus sarà a rischio assembramento con la ripresa, in una città dove il trasporto pubblico è da sempre sotto stress. Ma il Campidoglio assicura che ATAC e Roma TPL torneranno a livello di servizio invernale a partire del 14 settembre e che i servizi integrativi necessari verranno erogati mediante l'uso di mezzi privati. E intanto dalla Regione Lazio il via libera all'utilizzo di controllori, finora vietato dalle disposizioni del Ministero dei Trasporti, per verificare uso di mascherine e distanze di sicurezza. Ma intanto i passeggeri sembrano rispettare le regole. Si vede la gente che comunque cerca di crearsi lo spazio per non stare troppo a contatto uno con l'altro. Il distanziamento c'è? In alcuni autobus non è possibile, deve essere in c'è, però è molto affidato al buon senso delle persone. Quando io lo vedo troppo piano non entro, però vedo, insomma, un certo buon senso c'è, sì. E le mascherine ce l'hanno tutti sull'autobus? Sì, devo dire, per la maggior parte delle persone sì. Sì, sì, poi se qualcuno non ce l'ha, tutti gli altri. Sì, quando la gente magari sa, rispettano le cose perché c'è la paura. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ieri abbiamo parlato dell'orso M49, c'era un ascoltatore che ancora in fine puntata chiedeva, ma insomma dite qualcosa a favore di quest'orso. Avevamo già parlato degli ambientalisti di WWF che diceva che non poteva stare in una gabbia, non doveva essere catturato. Oggi è tornato a parlarne il ministro dell'ambiente Costa, che ha detto: sapere che Papillon, che è l'altro nome di M49, è chiuso in una gabbia fa male. Nei suoi mesi di ritrovata libertà non ha mostrato pericolosità verso l'uomo, ha cercato cibo, come giusto che sia, poteva essere radiocollarato nuovamente, seguito a distanza. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dice ancora Costa, con il quale sono in contatto, conosce bene la mia posizione, quindi ho dato mandato attraverso gli uffici del ministero a Ispra e Carabinieri Forestali di andare a verificare le condizioni di salute di M49 e degli altri due orsi che si trovano a Casteller, luogo ormai al limite della sua capienza. Vogliamo, ha concluso Costa, che in questa detenzione almeno sia garantito il benessere dell'animale. Quindi abbiamo parlato anche dell'orso, poi parleremo anche di Venezia, ma nel corso della puntata applausi per il quarto film italiano in concorso, Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Adesso però breve pausa, perché invece si sta muovendo su strade e autostrade, e poi torno ratta come la fulgore per gli approfondimenti con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchi di informazioni, sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta e ovviamente gli approfondimenti con gli ospiti, che cominciano come sempre da adesso. Roberta Giordano con voi per le vostre riflessioni, i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio c'è un ascoltatore che dice... questo ascoltatore Francesco, che dice: che senso ha che Renzi rimanga formalmente nel PD, spera di crescere all'ombra di Zingaretti. Vorrei avvertire Francesco che da qualche tempo Renzi ha fatto un suo partito che si chiama Italia Viva. Dopodiché invece dice questo altro ascoltatore: se ci sono 12 persone in terapia intensiva in Sardegna, scusi, quanti posti letto hanno in Sardegna? Siccome da Cagliari hanno fatto sapere che sono esauriti i posti letto in terapia intensiva. Ora vi leggo la dichiarazione del direttore sanitario dell'ospedale Covid di Cagliari, Sergio Marracini, che dice: i posti nella terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da coronavirus all'ospedale Santissima Trinità sono esauriti. Adesso stiamo pianificando l'apertura della seconda terapia che avevamo invece organizzato per i casi no Covid. Così do risposta anche all'ascoltatore. E direi di rimanere proprio su questo argomento, focalizzando le novità di oggi relative al coronavirus, e cioè intanto il bilancio di oggi nelle ultime 24 ore, che vi dicevo all'inizio, se non avete sentito, di 14 morti e 1434 nuovi contagiati. Numeri in aumento rispetto a ieri. L'indice di contagiosità RT viene misurato come in avvicinamento a 3, considerando i casi dei malati asintomatici. E poi, fra le novità di oggi, la questione del vaccino, con il vaccino su quale puntava molto l'Italia, quello in collaborazione tra il laboratorio di Pomezia e l'Università di Oxford e la casa farmaceutica AstraZeneca, che è temporaneamente bloccata, la cui sperimentazione è stata per il momento sospesa. Poi arriva sempre oggi la notizia, il test salivare super rapido sul virus. E poi, per quanto riguarda la quarantena, l'OMS che difende la quarantena a 14 giorni. Ma di tutte queste cose voglio parlare con il professor Giorgio Palù, ex presidente della Società Europea di Virologia e professore emerito di microbiologia all'Università di Padova, nonché consulente della Regione Veneto. Professor Palù, buonasera. Buonasera a voi. E grazie della disponibilità. Senta, adesso abbiamo capito, insomma, che sul vaccino, come anche ha ulteriormente sollecitato questa sera l'OMS, sto leggendo l'agenzia, che mette in guardia la popolazione mondiale che il vaccino, dice, contro il coronavirus non può essere fatto in fretta. In particolare già davano annunci negli Stati Uniti in questi giorni, in Russia, addirittura entro novembre. Questo su cui puntava l'Italia, quello che ricordavo poco fa, in collaborazione tra laboratorio IRBM di Pomezia e l'Università di Oxford, con il contratto firmato da AstraZeneca, di cui ho parlato spesso qui con i protagonisti a Effetto Notte, ha subito un arresto nella sperimentazione. Questo è stato l'annuncio oggi, perché c'è stata una reazione anomala. Quindi, professore, è vero, come dice l'OMS, che qui prima del 2022 non se ne parla? Ma sai, è difficile dirlo. Comunque, per fare un vaccino in tempi rapidi, superando quelle che sono richieste degli enti regolatori, ricordiamoli, per l'Europa sono l'EMA, che aveva sede a Londra, adesso ad Amsterdam, per gli Stati Uniti l'FDA, la Federal Drug Administration, devono superare dei test di sicurezza e di efficacia. Allora, il vaccino AstraZeneca, che insieme a Oxford e all'Istituto Jenner, quindi Università di Oxford, Istituto Jenner e AstraZeneca, sfrutta un vettore che è nato a Pomezia con Riccardo Cortese, è un adenovirus dello scimpanzé, che guarda caso è quello che costituisce anche il vaccino che efficacemente viene usato in Africa occidentale e Repubblica Democratica del Congo per combattere l'infezione da Ebola virus. Sa, come sempre, quando si prova o si testa un vaccino, un farmaco, ci possono essere effetti indesiderati. AstraZeneca è stata una, ce ne sono 30 in fase clinica, ma AstraZeneca, assieme a due vaccini cinesi, almeno altri due o tre americani e il vaccino russo della scorsa settimana, pubblicato il primo lavoro su Lancet, è quello che è evoluto un po' di più, perché ha fatto in fase 1-2 quasi 1000 pazienti e adesso è sperimentato in fase 3. La fase 3 è quella dove si sa già l'efficacia, la fase 1-2 la dose ottimale e gli effetti indesiderati. Non se ne erano notati, siamo in fase 3, c'è un paziente che ha avuto una specie di Guillain-Barré, che è una sindrome che ci può essere quando si somministra i vaccini, ma molto più frequentemente quando si ha un'infezione naturale, da influenza, da Epstein-Barr, da altri virus. Ecco, questo ha portato a un blocco temporaneo, quindi stanno valutando cosa ha causato questa reattività anomala, ma stiamo parlando già della fase 3, ovviamente, mentre nella fase 1-2, quella della dose efficace e degli effetti indesiderati si utilizzano centinaia di pazienti, nella fase 3 decine di migliaia. Di migliaia. Di pazienti. Comunque adesso quindi c'è sì, ci sono un delle... approccio cautelativo. Certo, ecco. Ecco, giusto in via precauzionale c'è questo comitato comunque internazionale indipendente che adesso farà una serie di verifiche. Però per contro, professor Paluce, una buona notizia di oggi. Oggi, allora, nella prima parte della giornata sembrava che già il Ministero della Salute l'avesse validato, invece adesso è in attesa di passare al vaglio del Ministero della Salute questo nuovo test rapido salivare, tutto italiano tra l'altro, che sarebbe capace in soli 3 minuti di verificare se si è positivi o meno al coronavirus. Realizzarlo è un'azienda brianzola di Merate, vicino Lecco, in collaborazione con l'Università del Sannio, cioè di Benevento. Questa è una buona notizia, professor Palù. Certo, in ma soli la buona 3 minuti, notizia no? È anche che tutti i vaccini che si sono provati finora inducono una forte risposta anticorpale anche se l'uomo diata, quindi diversamente da quanto si diceva, alcuni scettici che diffondevano notizie non veritiere, contro il coronavirus il nostro sistema immunitario risponde in maniera efficace e si dimostra anche il fatto che anticorpi contro il virus del raffreddore, ma anche contro il virus della SARS, si trovano in persone che possono rispondere ancora a, diciamo, a questo nuovo coronavirus. Quindi la risposta, questa è una buona notizia. Adesso ovviamente staremo a vedere sui vaccini. Il test salivare, allora, è stato validato da una pubblicazione sul New England del 3 settembre scorso. Il New England Journal è una delle prestigiose riviste nazionali di medicina, e dimostra quello che forse potevamo anche anticipare, che nella saliva si raccolgono più virus che facendo un tampone nasofaringeo oppure in orofaringe. Tampone che qualche volta, soprattutto nei pazienti piccoli, è molto fastidioso. E ricordo che l'approccio del tampone è un approccio diagnostico che, come ci ha già detto la Federal Food and Drug Administration americana, l'FDA, ha una sensibilità tra il 50 e il 60%, anche perché è difficile fare un prelievo corretto, soprattutto, ecco, dipende molto dall'operatore. Prendendo la saliva si raccoglie molto più virus. Quello che questa azienda italiana ha fatto, io ho cercato, non c'è una pubblicazione scientifica, sono documentato su quelli che sono i press release, credo che sia più che altro non un test, è un sistema di raccogliere la saliva, è un salivette, quello che quando si va dal dentista ovviamente si raccoglie, ricordo quando ci si mette quei batuffoli di cotone, diciamo, nella membrana sia gengivale che linguale, si raccoglie la saliva, e una raccolta di saliva poi centrifugata e preparata può contenere più virus. Il lavoro a cui facevo riferimento dimostra che la saliva può dare risposte molto più sensibili, nel senso che si riesce a rivelare una concentrazione di virus inferiore rispetto al test col tampone. Tra l'altro, quello, professor Palù, la cosa buona è anche che viene detto in soli 3 minuti dice se si è positivi o meno al virus, allora, quindi velocizzerebbe le operazioni in modo sostanziale. In 3 minuti però il test non è quello molecolare, perché il test molecolare più rapido che c'è dura 45 minuti. Quindi il test rapido è quello dell'antigene. La ricerca dell'antigene si può rivelare nel giro di pochi minuti. Quindi la stessa applicazione che hanno pubblicato gli americani, sono ricercatori dell'Università di Yale, nel Connecticut, si può applicare anche alla ricerca dell'antigene. I ricercatori americani ricercano l'RNA virale, cioè il genoma, che poi viene amplificato centinaia di migliaia di volte con la reazione di amplificazione che si chiama PCR. La ricerca dell'antigene è un po' meno sensibile, però è molto facile da eseguire, e quindi si eseguiva prima sul tampone nasofaringeo o orofaringeo, oggi la si può eseguire sul prelievo salivare. Quindi è importante, e quello che l'azienda italiana ha fatto, mi pare una piccola aziendina, uno spin-off, una piccola biotech, non ha fatto altro che utilizzare un sistema di prelievo. Ecco, quindi ricordo che la metodologia è duplice: o si ricerca l'RNA virale con tecnica di amplificazione genica, possibile cerca l'antigene. Questo vale non solo per il SARS-CoV-2, cioè il nuovo coronavirus, vale per tutti i virus, vale per l'epatite C, vale per l'epatite B, vale per l'HIV, quindi però ricordo che il test molecolare è più sensibile. Professore, sì. Senta, il fatto che in Abruzzo in questo momento si prevedono restrizioni in 5 comuni, tutti in provincia dell'Aquila, perché di nuovo ci sono dei focolai, la Francia che dice a giorni prenderemo delle decisioni difficili, la situazione generale a lei come sembra, molto in sintesi, professor Palù? Ma in sintesi la scuola che sta per riaprire. Abbiamo avuto una fase molto rapida di espansione del virus, una fase lentissima di decrescita. Siamo in una fase di recrudescenza, non abbiamo avuto l'azzeramento, quindi in Italia stiamo oscillando, ma siamo anche oggi intorno ai 1400 casi positivi. Fortunatamente la clinica ci sta dicendo che questi casi non sono gli stessi che avevamo a febbraio, marzo, aprile e maggio, quindi clinicamente sono meno gravi, molti pazienti sono asintomatici, sono più giovani. Ma vorrei ricordare che questo virus nel mondo, negli studi che dimostrano e che tracciano la circolazione del virus, ha una mortalità che oscilla tra lo 0,3 e lo 0,66%. Quindi sono numeri che adesso stiamo apprendendo e che ci insegnano, i francesi stanno applicando il concetto, che forse non occorre mettere in quarantena per 14 giorni una persona positiva, è importante tenerla per minor tempo, almeno un tempo necessario, che 3 o 4 giorni dopo che ha smesso. Anche se, professor Palù, per chiudere, perché siamo proprio in chiusura, l'OMS proprio in serata ha ribadito che l'indicazione è quella dei 14 giorni, perché dice tante persone oscillano, magari qualcuno ha una forte carica virologica ancora, per esempio, non so, intorno al 10° giorno, qualcun altro prima, qualcun altro dopo, quindi l'indicazione dell'OMS è ancora 14 giorni. Proprio una chiusura, professor Palù. È un'indicazione cautelativa, quello che dimostrano gli studi, la trasmissione, l'incubazione può variare da 2 giorni fino a 13-14. Quindi sappiamo anche che mentre i sintomatici nel momento in cui mostrano i sintomi, hanno già un calo importante della carica virale, gli asintomatici possono albergare il virus ancora per 1, 2, 3 o più settimane. Quindi è bene essere molto cautelativi finché non avremo un test quantitativo preciso, come avviene per altri virus, l'HIV, citomegalo, l'epatite C, l'epatite B, che ci permette di dire qual è la vera soglia che sembra emergere. Sembra che al di sotto di 1 milione di copie che detectiamo, di copie virali, non la trasmissione dell'infezione. Quindi professor, questo è un dato che va confermato. Certo, infatti, come diceva anche il viceministro Sileri, il ministro Speranza, anche oggi hanno detto aspettiamo delle comprovate evidenze scientifiche su questo. Grazie, professor Giorgio Palù. Buon lavoro, buona continuazione. Grazie. Ci prendiamo questa pausa, come sempre, di riflessione, di respiro. Do una notizia di calcio maschile che vedo adesso, un'agenzia di aggiornamento. Calcio ufficiale, Tonali è un giocatore del Milan. Chi fosse tifoso del Milan così lo sa. Ci sentiamo a momenti, 349-238-6666, sempre il numero per i vostri WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto per sapere tutto quello che c'è da sapere, scusate il bisticcio di parole, a fine giornata, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo. Abbiamo parlato quindi di tutte le novità della giornata, che non sono poche, sul tema coronavirus che purtroppo impregna le nostre vite da tanti mesi, anche se adesso in maniera, diciamo, pochino più moderata, però sempre in ostaggio del coronavirus è il mondo, le nostre vite sono comunque cambiate. Adesso invece ci soffermiamo, mentre vi ricordo che per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, dove Anna appunto sottolinea ancora la violenza sconcertante che ha caratterizzato l'omicidio di Willy, il ragazzo 21enne di Colleferro, di cui parleremo tra pochissimo. Dicevo, adesso ci concentriamo sulla politica italiana e anche in particolare sulla scuola. Quindi da questo punto di vista, francamente, avendo valutato tutto, ci sentiamo veramente di poter dire che garantiamo un rientro in sicurezza, e non è un'affermazione leggera. Detto questo, è evidente che non possiamo comunque fare test su tutta la popolazione studentesca, su tutti i componenti della comunità scolastica. Conte oggi ha tenuto una lunga conferenza stampa a Palazzo Chigi con la presenza dei ministri Azzolina, la ministra dell'istruzione, la ministra delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli e il ministro della salute Speranza, e ha detto: abbiamo fatto il massimo per dare il meglio alle ragazze e ai ragazzi, per far partire in sicurezza la scuola, che dice è una sfida per tutto il sistema Italia, e ha confermato la riapertura ufficiale, quella ufficiale del 14 settembre, perché sapete, ve lo ricordo più volte, che per le autonomie delle regioni, dei comuni eccetera, le scuole hanno, qualcuna ha già riaperto in varie parti d'Italia, qualcuna riaprirà anche invece dopo il 14 settembre, ma sentiamo questa conferma della riapertura regolare. Grazie a questo lavoro però preparatorio che abbiamo fatto, l'anno scolastico ricomincerà, e ricomincerà regolarmente a partire dal 14 settembre, anche se alcune regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno scelto di posticipare questa riapertura. Oh, e su questo saluto Lina Palmerini, firma scintillante del Sole 24 Ore. Cara Lina, bentornata. Buonasera, ciao. Lina, senti, effettivamente, come ha detto Conte, è una sfida per tutto il sistema Italia questa attesa ripartenza, quella ufficiale almeno del 14 settembre, no? Perché sappiamo che si naviga a vista, che anche in altri paesi europei la situazione non è molto confortante, perché c'è chi ha aperto e poi ha dovuto richiudere alcune scuole, come in Francia, come in Germania. In Francia anche ci sono ancora le cosiddette classi pollaio, anzi mi pareva che non hanno neanche una definizione per questo, perché semplicemente ci sono 36 ragazzi in aula e non c'è distanziamento. Insomma, quindi la situazione è un po' per tutti difficile. Sì, è un po' per tutti difficile. Poi insomma il governo italiano ha scelto di seguire con scrupolo e rigidità le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, quindi c'era da a organizzare nelle scuole un distanziamento di un metro, provvedere a tutte le mascherine, avere a che fare anche con problemi che di anno in anno ha la scuola, come quella delle cattedre vacanti per esempio. Quindi mi pare che ci sarà uno sforzo notevole per un sistema scuola che invece insomma non è stato così brillante negli anni scorsi e che non ha avuto un investimento politico, nel senso un investimento da parte della politica. È stato un po' un settore diciamo non considerato una priorità fin qui, molto trascurato. Quindi direi la prima notizia di oggi, al di là del rispettare i tempi che pure venivano messi in discussione, la prima sfida di oggi è quella di far diventare la scuola non la competenza di una ministra, ma una sfida corale, una sfida politica, una priorità di questo governo. Quindi, come si dice, Conte finalmente ci ha messo la faccia, perché la ministra Azzolina è stata lasciata sola in questi ultimi mesi a gestire qualcosa che anche per le competenze che implica non può riguardare soltanto l'istruzione, riguarda la sanità per l'appunto, riguarda il trasporto, e non a caso oggi la conferenza stampa è stata una conferenza stampa non solo dell'Azzolina, ma del Presidente del Consiglio, del Ministro della Sanità e della Ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture. In effetti la Ministra Azzolina è stata anche, diciamo, obiettivo di moltissime critiche molto forti, in particolare dalla Lega, tanto che il leader della Lega Matteo Salvini sta facendo una raccolta di firme per la sfiducia, una mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina. Sentiamo che cosa ha detto ancora lei oggi, per esempio, a proposito degli attacchi nei suoi confronti. Alla scuola dobbiamo un grande rispetto, e nel nome della scuola occorrono, pur nel normale confronto dialettico che deve esserci sempre in una società sana e democratica, più collaborazione, più proposte e meno scontro politico. Approfittare della scuola per fare mera propaganda, ancor più in periodi delicati come questo, significa non agire nell'interesse delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Quindi Lina Palmerini dice, Azzolina difendendosi dagli attacchi, per oggi c'era anche Bombardieri della UIL 24 mattino da noi che ha detto che è inadeguata. Lei dice lo si sta usando la scuola come propaganda, come per una campagna elettorale, no, di discredito nei confronti del governo. Cosa guarda, non vorrei ripetermi, il problema della scuola è un problema che l'Italia si trascina da diversi anni, non è un caso che c'è stato un continuo succedersi al Ministero dell'Istruzione di ministri che hanno avuto molte difficoltà a portare a termine delle riforme e quando hanno portato a termine delle riforme sono state puntualmente riviste. Poi direi anche un'autocritica da parte dei sindacati, perché se la scuola si trova in queste condizioni è anche perché i sindacati hanno una gran parte, diciamo, di responsabilità, nel senso che molte cose sono state concordate con i sindacati. Il problema per esempio del merito, del fatto che i professori non possano far carriera ma ci sono soltanto gli scatti di anzianità e quindi anche un settore, quello dell'istruzione, un po' autoriferito in cui appunto i professori e gli insegnanti non hanno neanche dei criteri su cui essere giudicati, non esiste neanche per loro il merito, quindi diciamo sull'istruzione serve un'autocritica corale, dopodiché tante cose non tornavano nella conferenza stampa di questa sera, di oggi pomeriggio, nel senso vedremo se davvero il numero dei banchi che dovrebbero arrivare quello ha annunciato, vedremo se le mascherine saranno consegnate ogni giorno 11 milioni. Senti, vedremo Lina, se gli insegnanti, tra l'altro so che c'è un grandissimo problema per gli insegnanti di sostegno e mi pare anche questo molto importante, insomma, per far funzionare la scuola anche per quelle fasce, diciamo, più deboli che vanno protette, quindi questo lo vedremo. Intanto però direi che sull'istruzione una bella autocritica generale, diciamo, un po' di ci sarebbe da fare. Serve, sì. Lina, sinteticamente, per esempio, questa storia di far partire la scuola il 14 settembre, probabilmente per tante pressioni anche che riceve il governo, ma visto che ci sono le elezioni il 20 e il 21 settembre, che quindi si faranno come sempre nelle scuole, poi bisognerà risanificare tutto, eccetera, non si poteva partire il 22. Sì, guarda, quello è stato un grande cortocircuito, anche perché insomma la questione delle regionali si è portata poi dietro quella della scuola, quindi secondo me su quello c'è stato un po' un difetto, nel senso che a un certo punto molti governatori chiedevano le elezioni regionali già prima delle ferie della pausa estiva, quindi già giugno, luglio, quindi lì un po' il governo ha sbagliato e doveva organizzare meglio il calendario, questo sì. Capisco che anche per i genitori, per carità, no, il fatto che devono lavorare, che quindi i figli devono andare a scuola, sia una difficoltà. A proposito dei genitori, Alice scrive: Roberta Cara, il presidente ostenta serenità, ma noi genitori siamo nel buio totale, non conosciamo nemmeno gli orari ridotti di queste prime settimane, cioè assolutamente impossibile organizzare il lavoro. Qui a Bologna le scuole sono chiuse da fine febbraio e lunedì riaprono senza alcuna certezza. Mi chiedo cosa di concreto si sia fatto in tutti questi mesi, insomma. Quindi senti, su questa cosa, per chiudere, Lina, secondo te si gioca la tenuta del governo? Sentiamo Conte che cosa ha risposto a questo proposito. Il governo innanzitutto ogni giorno si assume le responsabilità delle sue decisioni, quindi gliela rivolgerei. Noi ogni giorno di fronte alla comunità nazionale giustifichiamo il nostro essere qui, impegnarci, adottare eccetera, giorno per giorno. Non riteniamo, diciamo, non abbiamo mai pensato di assumere un incarico con delle garanzie. Quindi all'orizzonte non mi aspetto nulla. Cosa pensa, che il 15 ci riuniamo per valutare un rimpasto? La risposta è no. E in più, a proposito delle regionali, è stato chiesto questa sera in TV se le regionali possono avere contraccolpi sul governo, dice c'è una prospettiva che potrebbe essere negativa per il governo, non riuscire a fare le cose che dobbiamo fare, presentare alla Commissione europea i progetti del piano di ripresa nazionale. Insomma, le sfide sono tante ed enormi. Lina, vediamo come procede adesso già a partire dalla riapertura della scuola. Anche se credo che invece la scuola sia un test popolare molto importante per Conte, il primo dopo la gestione del lockdown, perché le scuole riguardano tutti, riguardano quasi tutte le famiglie italiane, riguardano gli insegnanti, quindi incrocia importante la vita quotidiana di tantissimi cittadini, persone. Quindi insomma lì un po' si misurerà il suo gradimento, il gradimento del governo, molto più che su cose come il recovery fund o il debito già, pubblico, perché riguarda le vite concrete e immediate, no? Infatti. Dalle cose lontane. Vediamo, dalle... mancano pochissimi giorni, potremo capire che cosa succede. Grazie Lina Palmerini e buona grazie serata. Te, un abbraccio. Buonasera. Ciao Lina. E in ritardo la viabilità, presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito di notizie importanti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi, torniamo sull'omicidio di Willy Duarte a Colleferro con Fulvio Fiano, giornalista di Corriere della Sera, che saluto. Buonasera Fulvio, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ciao Fulvio. Ciao. Tra le novità di oggi, l'autopsia sul povero corpo di Willy, sul quale sembra che addirittura dei violenti, tra coloro che lo hanno massacrato di botte, abbiano saltato sul corpo, e c'è anche la testimonianza di uno dei quattro arrestati che per la sua collaborazione mi pare sia stato messo agli arresti domiciliari, no Fulvio? Sì, la novità è il racconto completo contenuto nell'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari ha confermato l'arresto per tutti e quattro gli indagati, mandando però ai domiciliari Francesco Belleggia, che secondo invece due testimoni portati dagli altri indagati sarebbe lui l'autore dell'ultimo colpo decisivo ai danni del povero Willy. Ma al di là di questi dettagli emerge il quadro di violenze devastanti e cieche contro la comitiva di ragazzi di Colleferro che aveva cominciato questa lite con due della banda, diciamo dei quattro, con Pincarelli e Belleggia, e sulla quale poi è piombata appunto la furia, come la descrive il GIP, dei fratelli Bianchi, due lottatori praticanti di quest'arte marziale, la MMA. C'è il passaggio, uno dei passaggi più sconvolgenti di questa ricostruzione è proprio quella in cui un testimone riferisce di aver visto il 21enne a terra, inizialmente colpito da un calcio allo sterno e un pugno al volto, e poi una volta a terra su di lui si sarebbero accaniti i due Bianchi e Marco Gabriele. Sì, Marco Gabriele è il terzo ragazzo che è rimasto in galera, Pincarelli, saltandogli addirittura addosso, colpendolo ripetutamente, tanto che un altro, Willy, era intervenuto a difesa di un amico e una terza persona si sarebbe messo col suo corpo a fare scudo a Willy per provare a proteggerlo, quando però ormai era già in preda a convulsioni, non respirava. Insomma, hanno provato un'altra ragazza, riferisce di averlo provato a rianimare con una manovra di pronto intervento, insomma quelle di massaggio cardiaco, ma insomma è stato tutto inutile. E quindi appunto il quadro è quello di una violenza assolutamente, tra l'altro, sproporzionata a quello che stava accadendo, perché la lite nata tra questo Belleggia e un componente del gruppo rivale Zurma, per il quale poi Willy arriva a cercare di fare da paciere, si stava in realtà ricomponendo. La lite era nata per un apprezzamento su una ragazza nel pub dove si trovavano le due comitive. I soliti temi, veramente argomenti di una futilità veramente sconvolgente, sì, sì, sì. Insomma, che hanno prodotto questa furia evidentemente da parte di chi, come dicono alcuni ragazzi del paese, abituato proprio, no, a esprimere soltanto violenza. Sì, sembra un pretesto come un altro, si dice tante volte, insomma, un pretesto per menare le mani. Ma qui non si tratta di soli schiaffi o spinte, certo, o insomma si va molto oltre. Feratezza, una grande feratezza. Esatto, grazie esatto. Fulvio Fiano, grazie intanto, giornalista del Corriere della grazie Sera, buon lavoro, so che devi continuare con i tuoi pezzi. Sì, grazie. Grazie. Grazie Fulvio. Venite. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste. Che bel connubio, una rocker, almeno una colonna sonora come Gianna Nannini e una grande regista teatrale Emma Dante, che però qui si trova con un film italiano in concorso alla 77esima edizione della Mostra di Cinema di Venezia, dove è la nostra Marta Cagnola che ci racconta. Ho letto che ci sono stati 6 minuti di applausi al film di Emma Dante. E li vale tutti, è la trasposizione, libera trasposizione cinematografica della pièce teatrale di Emma Dante, già premio UBU. Le sorelle Macaluso. Molto diversa, Le sorelle Macaluso, molto diversa ovviamente dalla trasposizione teatrale, perché qui le sorelle sono 5 e vivono in una casa, non su un palco spoglio. Le sorelle che vediamo bambine, che vediamo adulte, che vediamo anziane, con un trauma, un lutto che attraversa tutta la loro vita. Il film è molto bello, esce già domani nelle sale, quindi potete già andarlo a vedere. Diciamo che questo fine settimana 2 dei film italiani sono già in sala, quindi Notturno e Le sorelle Macaluso, e vale assolutamente la pena andare 2 volte al cinema. Tanto mascherina, distanziamento, è tutto in sicurezza. Tutto in sicurezza, va, appunto, ritorniamo al cinema, soprattutto per film di grandi qualità. Grazie Marta Cagnola da Venezia, buon cinema. Ciao Marta, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.